Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Chiedo scusa a chi mi ascolta se oggi la mia forma non è perfetta, ma penso di avere una febbre molto alta e non sentirmi bene, ma capita. Succede anche nelle migliori famiglie, quindi cercherò di arrivare comunque alla fine della trasmissione, poi scomparirò dal mondo. Il tema di oggi mi sembra fondamentale perché gli ascoltatori debbano interrogarsi. Ci fu un signore che nel 1838, un signore noto in tutto il mondo per aver dato così ampio respiro a una teoria scientifica su quella che è l'evoluzione dell'umanità, e questo signore Charles Darwin, che scrisse, in procinto di sposarsi, una sorta di piccolo promemoria tipico dello scienziato, in cui elencò in un calepino quelli che erano i buoni motivi per sposarsi, i buoni motivi per non sposarsi. Beh, io vorrei riproporli oggi e vorrei sottoporre all'attenzione del pubblico che oggi mi starà vicino e quindi cercherà di parlare invece mia il più possibile, onde evitarmi lo strazio, il dolore e la sofferenza di parlare, pur essendo così fortemente ammorbato, per vedere quanto c'è di attualità in questi motivi, quanto si sono loro ispirati nelle loro scelte personali, individuali, a motivi molto simili, se ancora si considerano attuali i punti di vista dell'uomo a cui dobbiamo più interessante risposta rispetto alle origini della nostra abilità di essere umani, e quanto in realtà ancora c'è molta strada da fare nella nostra evoluzione per considerare una sorta di rapporto a vita come qualcosa su cui comunque bisogna prendere degli appunti, bisogna pensare, bisogna riflettere. 800 24 0024. Motivi validi per sposarsi secondo Charles Darwin. Figli, se Dio vuole. Una compagna fedele, amica nella vecchiaia, che si interessi a me. Oggetto di amore e di svago, comunque meglio di un cane. Una casa e qualcuno che se ne prenda cura. Iniziamo a farvi ascoltare i motivi di Charles Darwin. Questo avete visto, sposarsi è bello perché in fondo c'è una compagna fedele, amica della vecchiaia, tutte cose da decifrare, da provare. Comunque, diciamo, la premessa per cui non lo fa è il punto di vista maschile di un uomo, non è ancora tollerabile un punto di vista femminile, quindi come tale ve lo pongo. Poi le ascoltatrici possono chiamare all'800 24 0024 e fare il loro punto su quello che dice Darwin. Quindi compagna fedele, amica nella vecchiaia, cioè quando sei vecchio che ormai la prostata ti è tracollata, vai comunque una persona vicino che ti porgerà il pitale, quindi bene o male questo conviene. Che io sia per lei interesse di oggetto di, è oggetto di amore, di svago, comunque sempre meglio di un cane. Dice, beh, c'è da sperare che comunque per questa persona io sarò sempre meglio di un cane che comunque si accudisce, a cui una ciotola di zuppa non si nega. E poi, se uno poi vuole figli, chiaro, non c'è altra maniera per avere figli. Altro punto che oggi sarebbe sottoposto nella nostra evoluzione della civilizzazione a un bel più profondo modo di riflessione. Vediamo anche i motivi, perché altrettanto posti, per cui non è conveniente sposarsi, perché se li scrisse lo scienziato, e anche questi li mise in linea. Motivi validi per non sposarsi. Come farei ad occuparmi delle mie cose se fossi costretto ad andare ogni giorno a passeggio con mia moglie? Ahimè, non potrei mai imparare il francese, o vedere l'Europa, o andare in America, o fare un'ascensione in pallone, o fare una gita da solo in Galles. Ecco, per l'uomo di allora la lingua importante, la lingua della diplomazia, la lingua di chi viaggiava, era imparare il francese. Era fare un viaggio in pallone. Oggi avreste detto, opposto comunque al fatto: se mi sposo, poi che faccio? Non viaggio, non vado in giro, sempre portarmi dietro un altro essere umano, poi sempre lo stesso, senza dare al viaggio il senso più profondo di interesse, che è quello di vedere e conoscere nuove persone, allacciare nuove relazioni. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi storico e filosofo della scienza, nonché profondo conoscitore di quella che è anche la vita personale di Charles Darwin. Secondo te, perché lo scienziato mette nero su bianco questo appunto? Fa parte di un metodo scientifico, vuole vedere i pro e i contro, dove capire, e poi soprattutto che fine ha fatto dal punto di vista della sua vita individuale, come ha messo in pratica questi appunti che poi sentiremo. Ma sicuramente l'approccio scientifico è quello che ti porta a razionalizzare un problema, anche un problema esistenziale, che però ha tutte delle ricadute concrete, come quello di una scelta matrimoniale oppure no. Quindi sicuramente uno scienziato è più portato di altri. Questa scelta che ha fatto Charles Darwin va poi contestualizzata in un contesto, cioè quello di una società vittoriana e soprattutto dell'alta classe, cioè della classe aristocratica della società vittoriana o comunque benestante, che quando pensavano a un matrimonio pensavano anche a progettare il futuro dei figli che si sposavano, e quindi progettare il futuro significava anche garantire una sostenibilità economica alta alla famiglia che andava formandosi. Ma nel caso di Darwin c'erano altre componenti. Darwin doveva decidere che fare della sua vita, aveva appena chiuso la grandissima esperienza del viaggio attorno al mondo, da cui aveva raccolto tutti i dati su cui stava ragionando e da cui avrebbe tratto la teoria che l'avrebbe reso celebre in tutto il mondo. E però non faceva il professore universitario Darwin, perché la figura del professore universitario non era ancora così istituzionalizzata, e quindi per poter continuare a studiare avrebbe dovuto progettare una vita sostenibile e negli affetti e dal punto di vista economico, e quindi confrontandosi col padre, che era un medico ma anche una persona molto capace a ragionare di economia, ha cominciato a ragionare sull'eventualità del matrimonio come scelta possibile per continuare a sostenere quelli che fossero i suoi interessi, ma anche per sinceramente trovare una persona da amare che gli stesse vicino per tutta la vita. Mi rendo conto che questo potrebbe sembrare cinico guardato a distanza, ma io credo che anche nelle nostre vite meno avventurose ed epiche di quella che Charles ha avuto, anche noi più o meno consapevolmente facciamo le stesse scelte che lui ha messo su questo. Però la differenza è che non lo si ammette. Si dice sempre che è una scelta profonda, ispirata da valori metafisici come l'amore, la passione, la necessità comunque di svolgere quella che è una missione dell'umanità, che è quella di riprodursi. Lo scienziato si fa esattamente un procedimento reale, concreto, scrive i pro e i contro, li analizza, li valuta e poi vede se gli conviene. Pasquale, cosa ne pensa? 800240024, attualizziamo la lista di Darwin. Salve, buongiorno. Senta, io innanzitutto volevo dire una cosa, che per molti giovani è sempre stata una questione di principio, più che altro. La scelta di affrontare una vita insieme con la propria compagna o col proprio compagno, almeno per quanto riguarda i giovani, prevalentemente prima si basava sul fatto di non rimanere soli, oppure di far venire qualcuno qualcosa di diverso. Allora io sono convinto, dopo 10 anni di matrimonio, che adesso fra un po' faccio 10 anni di matrimonio, ho capito una cosa molto importante che potrebbe essere forse un aiuto per chi vuole affrontare un matrimonio. Secondo me la prima cosa importante da confrontarsi fra un uomo e una donna prima di affrontare un matrimonio è scoprire se in verità la donna o l'uomo è disposta a dare il massimo per la persona che un domani potrebbe nascere. Le spiego questo perché... Vabbè, ma finché non la vede che ne sa? Uno dice si lascia coinvolgere, ma poi quando lì... Forse sembrerà strano, però molto spesso sia la donna che l'uomo cambia, soprattutto dopo il matrimonio, perché affrontando una vita insieme si scoprono tutti i veri difetti. Ma le persone cambiano anche dopo una settimana che non ci dorme assieme, si accorge con un'altra persona. Però l'amore che uno prova con il proprio cuore, quello non potrà mai cambiare. Certo, esattamente quello dice Darwin, quell'amore che uno prova col proprio cuore non esiste, è semplicemente un procedimento chimico fine, e quindi non deve essere messo nel novero delle circostanze che condizionano una scelta. Corrado, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, il tempo è poco, comunque io sono arrivato a delle conclusioni, che è la donna che sceglie il partner più adatto alla procreazione. Ma allora perché tante donne sposano dei coglioni terribili, scusi? Sì, perché credono che quel coglione sia adatto. Beh, allora sbagliano, non è una sorta di dote tecnico-scientifica alla donna, sceglie l'uomo adatto alla procreazione. No, la donna sceglie l'uomo che pensa che in quel momento, mettendo in atto il teorema di Darwin, sia quello che risponda maggiormente a alcune esigenze di tranquillità, di serenità, di accudimento. Esigenze della prole sempre però. Ma dove sta scritto? Ma non siamo mica più dei lupi al tempo. Sì, ma non è più, magari c'è un retaggio lontano, ma oggi nessuno sceglie più le persone in base a quello. Sì, può essere lontanamente, esiste una sorta di chimica. Vede, in effetti lei è attratta da uomini belli, e questo bisogna vedere. Ma si sposano degli uomini bruttissimi, ma ricchi, ma potenti, schifosi. Sì, esatto, che comunque sono sempre, in effetti, hanno sempre delle caratteristiche tali da poter assicurare alla prole una vita agiata. Per far stare meglio la prole, sì, sposano anche mariti che le picchiano, mariti che picchiano i figli, persone che tagliano con la motosega moglie e figli, di tutto, vabbè, non mi sembra convincente. Cristina. Sì, buongiorno Nicoletti, sì. Tanti auguri per la sua influenza. Sì, sto malissimo, guardi, penso aver 40 di febbre. Non so, mi tremano le ginocchia e ho dei grandi problemi. Sì, ho problemi di tipo respiratorio, intestinali, tutti i tipi. Però poveretto, l'ha proprio beccata brutta. Sì, proprio brutta. Ascolti Nicoletti, a conforto del teorema di Darwin, io ho ascoltato Cesare Rimini, che è un grande divorzista milanese. Sì, un avvocato. L'avvocato. Qualche anno fa sosteneva in una conferenza che il matrimonio è entrato in crisi quando è diventato matrimonio d'amore, perché prima, quando era un contratto, ognuno sapeva cosa acquistava. C'erano dei termini come quelli che hai elencato. Ma chi si è inventato che il matrimonio è matrimonio d'amore? È un presupposto non scientificamente probabile, no. Non può essere una probabilità, perché l'amore, però, è una cosa è indefinibile, seconda cosa non ha una durata eterna, terza cosa è soggettivo. Ma il matrimonio d'amore, l'amore crea delle aspettative, delle illusioni, e invece quando uno compra qualcosa dice questo mi spetta A, B, C, D. Quindi, secondo lei, diciamo, l'appunto di Charles Darwin andrebbe scritto in lettere d'oro, apposto su tutte le porte portoni. Nicoletti, allora, i grandi si ricordano Assis quando ha stipulato il contratto di matrimonio con la Jackie Kennedy. Certo, giustamente. Sapeva cosa acquistava. Esattamente, sapeva che stava cinico, una... Nicoletti, molto. No, non è cinico, ma è reale. È ipocrita, ecco, sì. Ipocrita dal punto di vista opposto. Lo so. Va bene, grazie Cristina, donna illuminata che ci ascolta sul far del soffritto e che dà lenimento alle mie sofferenze di questo momento. Melog, cronache meridiane. Scusate, ma come ho detto, penso avere la febbre alta e non riesco a trattenermi. E stiamo questa mattina analizzando quello che è un appunto scientifico inoppugnabile dal punto di vista del metodo di Charles Darwin, che ha segnato in un suo taccuino i motivi per cui valeva la pena di sposarsi e i motivi contro il matrimonio, e poi ha fatto una sua valutazione. Li stiamo analizzando alla luce dell'esperienza dei nostri ascoltatori. Siete d'accordo che occorra pensare prima di decidere di dividere anche una parte della propria vita con una persona? Ci conviene? È una cosa che mette a repentaglio le nostre aspettative, o qualcosa che comunque vale la pena di fare, perché comunque rappresenta una sicurezza per il nostro futuro? 800240024. Sentiamo un altro degli appunti di Darwin. È intollerabile pensare di impiegare una vita intera come un'ape operaia a lavorare, lavorare, lavorare. Pensa invece a una tenera, dolce moglie, un divano, un bel camino e libri e magari musica. Questo è uno dei motivi perché è giusto sposarsi, una tenera e dolce moglie, sul divano, col camino acceso, con i libri. Non c'era ancora la televisione, non c'erano le PlayStation, non c'era l'amore di gruppo, non c'era nulla delle cose che oggi potrebbero rappresentare un'alternativa comunque al caminetto. Quindi questi erano i motivi per cui sposarsi. Però puntualmente lo scienziato, nell'altra colonna del suo appunto, mette una ragione per cui è bene non sposarsi. Se mi sposassi domani, ci sarebbe un'infinità di noie e di spese per trovare e ammobiliare una casa. lotte per non frequentare i salotti e non fare le visite mattutine, difficoltà e fastidi, perdita di tempo ogni giorno. Proviamo a attualizzarla. Arredare casa, beh, non c'ha nemmeno l'IKEA allora, quindi bisogna andare dall'artigiano, farsi fare i mobili, decidere con le zie, le nonne, le cognate baffute, con i padri che ti imponevano, una cosa terribile. Poi seconda cosa, le visite, c'era l'orario di visita, oggi questa cosa comprimibile, il dover necessariamente vedere i parenti, vedere gli amici, è sotto Natale, è terribile. Chi ha famiglie acquisite numerose non vive in questo momento, e naturalmente stare da soli da questo punto di vista è conveniente, uno almeno sceglie le persone da vedere, da guardare, da frequentare in questo periodo. Ma vediamo, andiamo ancora avanti. Niente bambini. Libertà di andare dove si vuole, di scegliere chi frequentare. Poter fare conversazione con uomini intelligenti nei club. Non essere costretti a fare visite a parenti e a cedere su ogni minima cosa. Poter leggere la sera, diventare grassi e pigri, no ansia e responsabilità. Più soldi per i libri. I libri sono centrali nella vita dello scienziato e la fruizione dei libri può essere condizionata comunque da una compagnia noiosa con cui non deve necessariamente dividere il suo tempo. Ciò gli crea ansia comunque anche dover per forza frequentare persone che non senta l'altezza dei suoi interessi, delle sue necessità. E poi invece ci sono anche dei motivi per cui forse anche varrebbe la pena di fare questa scelta. Non importa ragazzo, su con la vita. Non si può vivere questa vita solitaria con la prospettiva di una vecchiaia barcollante, senza amici, fredda, senza figli, che ti guarda in viso dove già compaiono le prime rughe. Non importa, fidati del destino. Tieni gli occhi aperti. Ci sono molti schiavi felici. Stefano Morigi, in questa conclusione sembra piuttosto sibillino, dice che alla fine ci sarà una sorta di legge dell'evoluzione che ci farà fare la scelta giusta, ci selezionerà verso la scelta giusta, e anche se noi fossimo schiavi poi di una persona, alla fine avremo dei motivi che ci compenseranno questa schiavitù. Ma guarda, prima fammi dire una cosa, effettivamente come tu accennavi, Darwin aveva l'ansia e ha avuto l'ansia di gestire, quando poi ha deciso di sposarsi, alcune scelte, alcune ricerche come quella della casa. Teniamo conto che quella che lui scelse per moglie, scelse si fa per dire, poi magari diciamo qualcosa, era la sua prima cugina, cioè Emma Wedgwood, che apparteneva a una famiglia ricchissima, erano degli grossi industriali di ceramica, e Emma abitava in una casa che ancora oggi si può vedere, ancorché la proprietà è privata, e che era praticamente un castello all'interno di una proprietà enorme, e lui doveva trovare, per necessità doveva stare a Londra per ragioni scientifiche, un appartamento che potesse andar bene alle abitudini di questa, che è abituata a vivere in un castello. Esatto, infatti era molto frustrato dall'idea di costringere questa ragazza in un appartamento, e quando la portò a vedere quella casa dalle tende gialle in Gower Street a Londra, dove oggi c'è il Darwin Building, cioè quella, la sezione di biologia dell'università della UCL, esattamente lì, non c'è più la casa ma è quella la posizione, era spaventato perché la casa era malmessa, c'era dentro anche qualche carogna di animali putrefatti dentro. E invece lei sì, come dire, mostrò molto più accondiscendente, perché era innamorata di suo marito, di quello che sarebbe stato suo marito, così come lui era innamorato di lei. Diciamolo subito, quella di Charles Darwin e di Emma Wedgwood è stata una meravigliosa storia d'amore, che però è nata sulla base di una scommessa, cioè su una decisione che tutti si trovano a fare quando scelgono la persona della propria vita, che è in parte incontrollabile, non si può sapere chi sarà. Descrivimi questo in una formula scientifica, però guarda, lo scienziato che è stato accusato di aver cancellato dall'umanità la traccia del disegno divino, in realtà poi ha seguito quello che è stato un suo desiderio d'amore, quindi qualcosa di impalpabile. Con tutte le incertezze del caso, lui pensa che si veniva addirittura brutto in maniera repellente, e tremava quando a cavallo andò nella proprietà di Emma per in qualche modo confessarle il proprio amore la prima volta in una chiacchierata davanti al camino, quella che lui chiamò un'espressione inglese tradotta oca sentimentale, cioè una chiacchierata intima davanti al camino, per poi qualche mese dopo chiederle effettivamente la mano. E alla fine lei disse di sì, e Charles sapeva bene che Emma aveva rifiutato un numero di pretendenti, anche ben, come dire, dei gran bei partiti, e quindi era molto insicuro della sua scelta, delle sue capacità. E secondo te perché lo sposò lei? Brutto? Perché era innamorata della sua intelligenza, probabilmente, perché non aveva nessun motivo. Dalle lettere tra loro due, quello che viene fuori, anche dalle lettere che Emma scrive ai parenti dopo aver preso questa decisione, l'ha sposato perché era un ragazzo aperto, dice lei, sincero, e quello era il compagno che lei sognava. Una delle ragioni per cui Darwin può anche essere che l'evoluzione lui avesse lasciato tracce recondite di brutalità ataviche che in realtà piacciono, non lo so, probabilmente. Ma anche no, era tutt'altro che una persona brutale, anzi. No, brutalità nel senso di, diciamo, aveva delle sproporzioni che gli permettevano anche di essere un uomo affascinante. Sentiamo un attimo Angela. Sì, salve, buongiorno. Pronto? L'ascolto. Pronto? Angela, sì, l'ascolto. Buongiorno. Sì, no, io volevo dire soltanto che ciò che io penso e provo tutti i giorni è che bisogna sposarsi solo per amore. Io ma come si fa a capire? Quale strumento si usa per misurare l'amore? La prima cosa che io ho provato quando avevo conosciuto mio marito sono dei brividi particolari che uno se ne accorge. Da dove partono i brividi? Da dove partono i brividi? Non si può dire, dalla pancia, dalle mani, dalla testa, da tutte le parti che hai. No, perché anche adesso sento brividi, ma penso sia per la mia temperatura febbrile. Non è neanche per la temperatura. Io le dico che dopo 19 anni, quasi 20, che siamo insieme, abbiamo 4 figli, se io penso a mio marito chiudendo gli occhi, non essendo con lui, provo ancora dei brividi. Ancora quei brividi? E delle emozioni fortissime. E quando c'è lui cosa prova? Non darei la stessa cosa, non darei nessun oggetto, cioè mio amore per nessun oggetto, amore per nessuna cifra che esiste. L'amore si dà per un altro amore. È infinito ed è la forza più grande che esiste. Va bene, secondo è meraviglioso. La sigla ci porta via, però lei mi riconforta, in fondo è lenimento vero per i brividi febbrili che sento pensando che queste sono donne che rabbrividiscono al pensiero di un uomo che hanno conosciuto decine di anni fa. Ci sentiamo lunedì, forse.